Tra le righe, spunti, incontri e divagazioni con Adelaide Spallino. Benvenuti a Tra le righe. Oggi è ospite nostro Luca Manzi, autore del Destino antassista abusivo. Ciao Luca. Salve. Allora, tu arrivi dritto dritto dal mondo della televisione, sei stato produttore creativo della serie Don Matteo e uno degli ideatori della serie cult Boris. Dato che il momento germinale è sempre molto interessante, ci dici come ha avuto origine questo romanzo, ovvero come ti è venuto in mente di scriverlo? Ma è stata una gestazione lunghissima, devo dire, perché io ho fatto studi abbastanza classici, mi sono laureato in letteratura italiana, ho studiato quindi per tantissimo tempo i libri degli altri e quindi sono cresciuto un po' con l'adorazione e l'imbarazzo anche per l'idea e l'oggetto del romanzo, e quindi è stato un accostamento molto progressivo, nel senso che quando una cosa come in questo caso il romanzo è così importante, è così quasi sacrale per te, non è che ti svegli una mattina e dici oddio, scrivo un romanzo, no? Perché ne hai letti tantissimi e ne hai letti molto migliori di quello che tu pensi di poter mai scrivere, no? Quindi è come dire entrare in un regno fatto di palazzi splendidi ed enormi. Per tanto tempo l'ho pensato come un sogno e ho lentamente sedimentato dei temi, ma questo ti parlo di anni proprio. Io mi sono laureato a 26 anni e il mio romanzo è uscito quando ce ne avevo 40, quindi è stata veramente una gestazione molto lunga, però per moltissimi anni avevo dei temi che mi ballavano in testa e non avevo una storia, e quindi stavo lì, come dire, a tenere in una stanza tutte queste idee che mi venivano. Poi invece di un piatto sono cominciati a uscire fuori dei personaggi, lentamente, e poi a un certo punto questi personaggi hanno cominciato a fare delle cose, e allora è nato il romanzo, nel senso che poi, come dire, sono stati molti personaggi ad aiutarmi a vincere questa paura e questo senso di reverenza verso il mondo del romanzo e dell'oggetto libro, come dire, perché poi a quel punto, che io volessi o meno, questi qui hanno cominciato ad andarsene per conto loro e a fare le loro cose, e allora io ho cominciato a scrivere. Quindi sono stato salvato dai miei personaggi, se no probabilmente non sarei mai riuscito a vincere il timore reverenziale verso l'idea di scrivere un romanzo. Di solito gli sceneggiatori per il grande pubblico fanno parte di quella categoria che nei titoli di coda lasciano meriti o demeriti ad attori e registi, no? Con questo libro tu sei un ettrino e ben esposto al giudizio dei lettori. Hai pensato a questo prima di scrivere Il destino antassista abusivo, oppure prima di pubblicarlo e quando era già pronto e tu adesso mi metto in gioco davvero? Ci ho pensato moltissimo. Condivido ogni parola di quello che hai detto. Nel senso che se scrivi per la televisione o per il cinema, diciamo, sei in questa situazione che hai descritto molto bene, da un certo punto di vista estremamente protetto. Ti confondi nella folla, no? Come tipo nelle foto del G20, quelli che stanno in terza fila, no? Per cui sì, il G20 ha deciso una serie di cose, però tu sei parte del gruppo di quelli che hanno deciso, e non sei neanche in prima fila, perché appunto il regista, sono gli attori poi quelli che sono veramente esposti fisicamente. Poi questa è una cosa estremamente comoda, estremamente serena, ti dà tranquillità, ti responsabilizza per molti versi, ti protegge non solo dalla responsabilità di quello che scrivi, ma anche dal contatto diretto con il tuo pubblico, che è una cosa che uno sceneggiatore non ha mai praticamente. Perché quando qualcuno vede un film o una serie è difficile che vada dallo sceneggiatore, va dall'attore generalmente, perché ai suoi occhi è lui che impersona quella cosa, al massimo va dal regista. Questa cosa mi è sempre piaciuta, però poi se cresci come scrittore, secondo me banalmente avvicinandoti ai 40, cioè l'età della vita in cui cerchi veramente di capire chi sei e di che cosa sei capace, ti viene voglia di dire vabbè, vediamo se riesco a fare una cosa solo io, e ti assumi la responsabilità di farlo a un certo punto. Ed è un bisogno, cioè come scrittore non riuscirai mai a capire fino in fondo, qui parlo di me naturalmente, quello che sei veramente in grado di dire fin quando non provi a essere completamente da solo, senza scuse, senza possibilità di gettare la responsabilità di quello che è il prodotto su qualcun altro, no? Perché poi è vero che ci sono gli editor e che c'è un editore in un libro, però come dire, veramente il loro ruolo è di puro supporto. Anche un editore, come dire, presente come Rizzoli, comunque mi ha lasciato enormemente libero, no? E quindi vuoi veramente capire fino a dove puoi arrivare a quel punto. Io l'ho fatto anche molto per questo, probabilmente mi sono un po' forzato, perché sentivo il bisogno di dire vabbè, adesso voglio essere giudicato esclusivamente per quello che sono io come scrittore, e un libro ti dà questa cosa bellissima, nel bene e nel male, tu scrivi una cosa e tu, lettore, la leggi, e poi sono affari miei, nel senso che appunto ne reagisci da solo. E anche questo l'ho scoperto dopo il libro, il lato diciamo un po' più faticoso, nel senso che poi l'esposizione diretta è faticosa, la gente scrive a te, viene da te, parla con te, pretende spiegazioni che tu non hai sul romanzo, ti chiede cose a cui non hai mai pensato, e quindi banalmente poi anche il tuo stile di vita un po' cambia quando passi dalla sceneggiatura al romanzo, perché banalmente come sceneggiatore te ne stai a casa, non ti occupi della promozione, non hai contatti con nessuno, mentre poi quando fai lo scrittore invece devi stare lì un po' a seguire il tuo libro veramente in prima persona. Certo, il protagonista del libro, a proposito, è Giorgio, è un precario a tutto tondo che non si fa mancare nulla per non esserlo però, ma lui è il vertice verso cui convergono le storie dei suoi amici, quindi noi veniamo a conoscenza di tutte le storie che fanno, diciamo così, più che altro che sono delle grane sentimentali di Davide, il vicino di casa, di Mario, il fratello, e di Franco, una specie, chiamiamolo, datore di lavoro, no? Ti sei ispirato ad amici, conoscenti tuoi per questi personaggi? Sono molto vividi, sono molto reali e suggestivi. Questa è una domanda che mi fanno molto spesso e che mi rende molto felice, nel senso che in realtà nessuno di questi personaggi esiste. Né esiste, ti devo dire a bruciapelo, una persona diciamo a cui io mi sono ispirato. Io credo che la realtà di questi personaggi deriva proprio dal fatto che generalmente quando scrivo ho tempi di incubazione sui personaggi lunghissimi, cioè lascio veramente che si sedimentino progressivamente. Ci sono due personaggi reali nella storia, che è la nonna del protagonista, Borisca. Che mia nonna era esattamente, esatto, che era un, mia nonna era ungherese, era una donna meravigliosa, una donna che mi manca molto, a cui ho dedicato il romanzo, ed è un personaggio reale che c'è stato nella mia vita. E il rapporto tra il protagonista e sua nonna è lo stesso che io avevo con mia nonna. E poi un altro personaggio molto secondario, che è il personaggio di Bianca, è un altro personaggio esistito nella mia vita. Per il resto tutti i personaggi principali sono inventati e sicuramente hanno una parentela con la realtà. Io sono convinto profondamente, più scrivo, più tu in realtà non ti inventi assolutamente niente. Io non credo di essere un creativo, come che è un termine secondo me improprio. Tu semplicemente ti prendi 1000 pezzi di persone che incontri per strada e queste dentro di te si riorganizzano con una sintassi diversa, come un puzzle, no? Quindi incontri, le sensazioni, le facce, le idee, le emozioni delle persone ti entrano dentro, rimangono un po' lì e poi si riaggrumano in maniera diversa. Sicuramente in questi personaggi ci stanno tante persone che io ho conosciuto e che però se ti dovessi dire Franco somiglia a Tizio piuttosto che Davide somiglia a Caio, onestamente non sono in grado di farlo. Sono tutti pezzi di persone che tu hai incontrato, si sono sedimentati dentro di te e poi si sono liberati con la scrittura, perché poi la scrittura è una forma di liberazione, insomma, da se stessi, sì. da tante cose. Andando ai personaggi, Davide sta con una donna talmente perfetta da risultare a un certo punto frutto della sua fantasia, viene il sospetto. Mario è l'esperto del gruppo col suo decalogo, no, sulle leggi che regolano i rapporti uomo-donna. Franco, mi verrebbe da dire lasciamo perdere che è meglio, ma alla fine è quello che è sincero fino al midollo con la moglie, fin troppo. Ognuno di loro ha un'idea ben precisa, può essere sbagliato più o meno, per come deve essere un rapporto di coppia, tranne Giorgio che di idee ne ha poche e confuse. Possiamo dire che in questo romanzo c'è così un po' buttato lì per caso una sorta di piccolo manuale di educazione sentimentale dei maschi? Ma guarda, senz'altro è... A me attraeva molto l'idea di raccontare l'amore visto dai maschi, dagli uomini, perché è una cosa che a parte mi interessa raccontare, perché essendo io un maschio e mi faccio mille domande sull'amore come mistero, non so se userei il termine manuale, nel senso che poi queste persone... Diciamo, sono quattro amici che, ridendo e scherzando, cercano di capire come far funzionare le loro storie d'amore, come essere felici con la persona che amano, che credo che sia una domanda che ci facciamo tutti, se amiamo qualcuno. Un manuale non so, perché comunque le risposte sottese al romanzo sono alquanto contraddittorie. Se ci fosse una regola che possiamo estrapolare dal romanzo, questa è una cosa funziona per uno e un'altra, una cosa non funziona per l'altro, tipo la verità. Davide, come dicevi giustamente te, è un personaggio, scusa Franco, è un personaggio estremamente brutale, che dice la verità tantissimo, pure troppo. Allora, si può dire troppo la verità? Ci sono casi in cui la verità è meglio non dirla, non dico mentire, ma tacere certe volte. A volte sì, a volte no, a volte serve non tacere, a volte serve tacere. La realtà è che ogni storia disegna un mondo, genera un mondo suo proprio, in cui le regole, secondo me, valgono fino a un certo punto. E questo è quello che succede a questi poveracci, nel senso che poi si danno mille consigli e tentano di raccapezzarsi aiutandosi l'un l'altro nelle loro storie d'amore, però quello che funziona per uno poi a volte non funziona per l'altro. Cioè, ti faccio un esempio. Franco a un certo punto appunto viene cacciato dalla moglie perché fondamentalmente non l'ascolta, Davide non ascolta la sua donna nel momento più importante e questa cosa funziona, quindi è un po' l'impressione che ho avuto io, perché in realtà la persona con cui stai e la persona che ami molto spesso, come dire, ti cambia le regole. Tu è chiaro che c'hai due o tre idee su come dovrebbe essere l'amore, su quello che è giusto e sbagliato fare. Immagino che si possano fare queste regole, ma sono estremamente semplici. La grossa sfida è capire come farle indossare alla persona che ami, come indossarle tu con la persona che ami. E qui credo che non ci sia una regola se non quello di cercare di capire chi è di fronte, probabilmente. Parlando di amore, appunto, Giorgio si innamora di Agnese, che è una studentessa con la quale però i rapporti non sono dei più semplici. Una curiosità, perché Giorgio fin dall'inizio ha notato il pessimo gusto di Agnese nell'accostare capi di abbigliamento e colori degli stessi, e mi viene da dire, vuol dire che l'uomo affezionato al calzino bianco si è evoluto o è solo una perla rara questa di Giorgio? No, secondo me, guarda, non lo so, Giorgio è uno studente, anzi è un ricercatore di grande talento di storia dell'arte, sì. Ed ha un senso estetico profondo, anche se non è un fichetto. Un Giorgio è uno che si veste estremamente normale, perché lui non applica la bellezza a sé, applica la bellezza a quello che vede. Questa secondo me è una delle caratteristiche fondamentali di Giorgio. Giorgio vive di ciò che è bello intorno a sé, ha bisogno di vedere cose belle, se no non sta bene. E si innamora di una donna che appunto, diciamo, si veste in maniera, come dire, un po' lontana dai suoi canoni estetici. Esatto, Ma questo appunto è un po' il discorso che dicevamo sul fatto che uno si aspetta certe cose e poi ogni donna ridefinisce tutte le regole, per cui Giorgio se ne frega che questa ha le unghie disegnate col vomito di Satana, come dice lui a un certo punto. Non so, sì, credo comunque in generale che tu abbia ragione, che il gusto dell'uomo un pochino, dai e dai, a calci in culo, se mi permettete, si sta evolvendo un po', perlomeno per raggiungere una stentata sufficienza. Questo romanzo, Luca, ha anche un merito, che è quello di avere anche sullo sfondo una Roma che non è da cartolina, è una Roma quotidiana e bella perché è quotidiana, dove c'è spazio per un'opera d'arte dentro un vicoletto, ma anche per il zozzo. Quindi questo è un merito, ce ne sono troppe di cartoline patinate di Roma, no? Sì, beh, poi Roma è la mia città, sono nato e cresciuto qui. Io ho la fortuna di viaggiare molto per lavoro, anche diciamo per piacere, e ogni volta che poi torni in un posto che ami dopo averne visto un altro anche molto bello, questo ti obbliga a sfondare la cartolina, secondo me, a vederlo con occhi sempre più profondi. Io poi sono uno che va in bicicletta come Giorgio. Quando vai in bicicletta hai tempo per guardarti intorno molto di più, per vedere tante cose o vederle in maniera diversa, insomma è una grande occasione, e quindi Roma io la vivo oggettivamente, la vivo perché ci giro molto e poi appunto ci sono anche cose molto belle, ma poi vivo in borgata, quindi come dire, la borgata grazie a Dio non è raggiunta dalle orde dei turisti e ha una sua bellezza specifica che è un po' che non si racconta, insomma, poi ci sono stati grandissimi tipo Pasolini che l'hanno raccontata in maniera strepitosa, e quindi, come dire, mi onoro forse di essere un minimo epigono di grandissimi scrittori, però io la amo quella Roma e qui sono felice di raccontarla. Qualche curiosità su di te. Nella letta della quarta di copertina è scritto nero su bianco, o meglio nero su giallo ocra, che tu odi cani. Odio i tolleri cani. Il che non vuol dire che certo che ti stanno simpatici uomini e gatti, ami le piante. Sì. Cos'è che ti infastidisce dei primi tre? Il fatto che si muovono? No, allora i cani in realtà non li odio, ma ne sono terrorizzato. È molto più triste la situazione perché, no, vabbè, quando ero bambino fui morso da un cane, da quel momento io quando vedo un cane mi metto paura e quindi è un motivo estremamente banale. Poi mi piacerebbe anche perché ne vedo questa, come dire, questa bontà priva di sfumature, no? Questo senso dell'amore assoluto che generalmente ha un cane, che è veramente profondamente attraente per un uomo che invece nelle relazioni non gli capita mai, non ti capita mai una cosa del genere. Però diciamo col cane è molto semplice, c'ho un trauma infantile che non ho mai veramente superato. I gatti in realtà mi piacciono molto, non ho un gatto in campagna, non ce l'ho qui a Roma perché vivo da solo e viaggio molto, quindi non riesco ad avere un animale domestico. In realtà i gatti mi piacciono veramente tanto. Le persone, non sono una persona molto, come dire, non sono un grandissimo frequentatore, che ne so, di feste, di vernissage, di situazioni sociali, per pigrizia. Mi piace osservare, ho degli amici, ho dei parenti, cioè intrattengo un minimo di relazioni umane, però è che anche odio il rumore, quindi più che odiare il movimento credo di odiare il rumore, infatti amo il gatto anche per questo, il gatto è incredibilmente silenzioso. E quando ha da dire qualcosa la dice a bassa voce, perché non può mai miagolare in maniera urtante in realtà. Le piante non lo so, io sono veramente affascinato, ho tantissime piante e mi piace il fatto che è veramente difficile capirle perché non parlano, non fanno le facce, quindi a volte vedi una pianta che non sta bene, devi veramente sforzarti di capire perché, e poi perché sono piene di colori, e quindi questa cosa mi piace un sacco. Un'ultima cosa, un giovanissimo lettore tifoso della Roma ha detto del tuo libro: sembra un film scritto, lo trovi un buon assist? Assolutamente no, nel senso che ringrazio e saluto un giovanissimo scrittore amante della Roma, che lo so anch'io. Quando appunto vieni, diciamo, esci dal carcere della sceneggiatura, cioè che è una cosa che tu scrivi come un manuale di istruzioni per un altro, no? Per il regista. Quando scrivi una sceneggiatura ci sono mille cose che non puoi scrivere, perché è inutile, perché te la tireranno dietro, perché sarà una perdita di tempo, perché non serve. Quando per la prima volta scrivi un romanzo, finalmente dici, ecco, adesso tutto quello che voglio raccontare lo racconto, adesso perdo una pagina e mezzo a parlare di una cosa che non c'entra niente, ma che mi fa molto ridere. Il romanzo, diciamo, ce n'ha un po' di queste piccole digressioni, le teorie sociologiche dell'uno o dell'altro personaggio, piuttosto che i momenti del passato del protagonista. Ed è veramente bello per la prima volta, come dire, stendere la pasta su un tavolo che non finisce mai, come dire. Invece il tavolo su cui tu stendi la tua pasta è sempre molto stretto quando sei sceneggiatore. Mi è piaciuto da morire, è stata una cosa veramente che mi ha molto appagato come scrittore. Pensare di dover togliere tutte quelle cose per farci un film, un po' dico no, se me lo posso permettere eviterò. In questo momento sto scrivendo anche molto per il cinema, quindi, come dire, se riesco a tenere le due cose separate sono veramente contento. Poi la vita decide per te a volte, quindi non so se riuscirò a farlo o se cambierò idea, naturalmente, però per adesso penso questo. Che il libro, che scrivere il libro ti abbia appagato è chiaro, perché questo traspare dalle pagine. Il libro è divertentissimo per come è raccontato e vissuto, e quindi anche il lettore si diverte, si ride con le lacrime, proprio detto chiaramente. Noi... Ma guarda, questa è, posso dire, è sì, veramente la cosa più bella che mi hanno detto, ed è il motivo che mi ha riempito di gioia di più. Le persone che hanno letto questo romanzo mi hanno detto che hanno riso ad alta voce tutti. E, insomma, svegliarti la mattina e pensare che fai ridere qualcuno è una cosa meravigliosa, e veramente mi sento enormemente fortunato di essere stato in grado di farlo. È una cosa che veramente ti riempie la vita. Grazie Luca, grazie e buon lavoro, buona continuazione, buon tutto, grazie mille. Grazie a voi, grazie a voi. Abbiamo trasmesso Le mirabolanti avventure de Il destino è un tassista abusivo di Luca Manzi. Tra le righe e Adelaide Spallino vi danno appuntamento alla prossima puntata.